Thank you. Danny Johnson dal suo November, disco che vive sì di quei chiaroscuri appunto autunnali, che forse insomma a giugno non sono proprio indicatissimi, ma che danno insomma l'idea di un suono post-minimalista, comunque piuttosto ancora movimentato, piuttosto ancora inquieto e quindi aperto insomma a esperienze, appunto anche lungimirante nel suo farsi, nel suo costruire appunto nuovi intrecci compositivi, nel trattare appunto la materia sonora, incidendola e anche a volte scalfendola proprio con questo piano, sì, che a volte si fa effimero con queste code lunghe, ma altre volte invece appunto è appuntito quasi a rendere ruvida la superficie, a rendere quindi la textura più sicuramente cruda, se vogliamo. E Danny Johnson da novembre ci porta anche a un personaggio che proviene da tutt'altra faccenda, tutt'altro che minimalismo o drum music, musica insomma legata al flusso e alla textura. Stiamo parlando di Leyland Kirby, che invece viene dal mondo del rave, del terrorismo sonoro, con il suo progetto WWM, addirittura insomma un disco anche piuttosto simpatico, d'aiuto a Aphex Twin nel pieno insomma dell'attività dello storico insomma autore elettronico della Cornovaglia. E WWM, ovvero Leyland Kirby, si sognò insomma di rendergli un omaggio sarcastico, dedicandogli appunto un disco d'aiuto per farlo insomma riprendere, e giocando insomma su un suono rave portato anche all'estremo, Poi nel corso, insomma, dell'avventura di WWM è diventato sempre più noise il suono. Kirby però ha poi cambiato strada con Carcator, un suono che evidentemente così smarrendo quello che era il portato di una generazione, quella appunto della Rave Generation, che l'aveva visto protagonista. Recupera i suoni della memoria, i momenti, insomma, di un Inghilterra degli anni 60, ancora così molto, molto virginale nel suo essere futuribile, futuristica, nel cercare appunto questa grande scappatoia nel futuro. E Kirby, appunto, quasi ritornando con una sorta di nastro che torna indietro, di rewind, e riprende sì certi suoni analogici, sia certi umori appunto degli anni 60, magari orchestrali, però li riporta poi in una maniera anche spettrale dentro quella, appunto, smarrimento di una generazione che non era più protagonista, nel senso, appunto, non c'erano più intorno alla fine degli anni 90 grandi raduni rave, e così si concludeva una stagione anche molto importante in termini musicali. E dopo Carcator, addirittura Kirby inizia proprio un percorso ancora più intimista, se vogliamo, per certi versi, sempre comunque sperimentale, mai chiuso in se stesso. Un discorso riflessivo su quello che, appunto, è la tessitura musicale del grande Erik Satie, ma anche certo Errol Budd, che riprendeva, insomma, in chiave anche a volte ignana, appunto, il grande francese, facendo dei suoni, insomma, della memoria del Novecento, di certo Novecento, uno dei suoni più affascinanti di questi ultimi anni. Andiamo appunto a prendere uno dei suoi ultimissimi lavori, 40 file, anch'essi quasi smarriti su internet, che potete ritrovare, insomma, cercandoli partendo dal suo sito. E questo lavoro, insomma, ci porta a un Kirby sempre più riflessivo, sempre più legato, appunto, a una tessitura che si allarga a dismisura, e quasi cercando, insomma, di smarrire temporalmente e anche fisicamente per molti versi. Pensiamo alla smaterializzazione, insomma, del file MP3, proprio questo percorso musicale. Leonard Kibbe con il suo We Drink to Forget the Coming Storm. Thank you. Thank you. Leyland Kirby dal suo We Drink to Forget the Coming Storm, e forse in questo senso, insomma, lo possiamo prendere anche per certi versi sul serio, il ex terrorista, ragazzaccio elettronico che faceva e disfava, insomma, di tutto di più, tra il materiale più disparato, appunto, nel suono rave, quello più, insomma, legato a musiche e sparatissime elettroniche, quel suono quasi hardcore, che però, insomma, nella fattispecie si faceva comunque sperimentale, e poi, appunto, dopo si è fatto altrettanto denso, ma sicuramente legato più a un suono e anche un'attitudine più riflessiva, legata appunto, come dicevo prima, alla memoria, alla textura, alla tessere anche, appunto, spazi e tempi, soprattutto lontani, anche quasi a ridisegnare, insomma, una sorta di così tempo, forse, che in alcuni momenti si vuole smarrito, e poi invece si ritrova, appunto, nel momento della riflessione, della forse anche del momento, insomma, di un'intimità, un suono che di certo poi comunque non si chiude in se stesso, come appunto accennavamo prima. Già il titolo probabilmente riflette questa faccenda, insomma, brindando così per come dire, spostare quello che è una tempesta che è in arrivo, forse la dice anche lunga proprio su un'esperienza anche personale, ma anche, appunto, dialettica rispetto all'esterno che Kirby, insomma, sta facendo in questi anni. Salutiamo, tra l'altro, insomma, nei lidi nordici Cristina da Copenaghen, che probabilmente, insomma, è in ascolto non dall'FM, insomma, sarebbe un po' troppo per Radio Città Fujiko, però, insomma, tramite la rete dispersa, appunto, in quel di Copenaghen c'era, appunto, una simpatica ascoltatrice che prima era, appunto, bolognese, adesso invece è in quella di Copenaghen, quindi terra, insomma, sicuramente non così umida, insomma, ma qua non si riesce a stare quasi in radio, quindi magari in questo momento quasi apprezziamo insomma, l'invidiamo per quanto riguarda il clima magari più godevole che si può avere a Copenaghen in questo momento. Comunque, a parte gli scherzi, salutiamo Cristina. E continuando invece il percorso sonoro di queste texture, andiamo a trovare tra l'altro personaggio nordico, e quindi, come dire, Copenaghen ci stava anche bene, ma saliamo ancora più su, andiamo a Reykjavik e andiamo a trovare Hildur Guðnadóttir, non so come diavolo l'abbia pronunciata, però, insomma, tant'è che spero che qualcuno l'abbia capito. Comunque, poi, se ci sono problemi di questo tipo, c'è 451 frammenti sonori noblogs.org per leggere anche titoli e anche artisti quasi impronunciabili, ma ci siamo anche lanciati con qualcosa di più duro, cioè, finché arriviamo a Hildur Guðnadóttir, ancora ce la facciamo. Ci andiamo a ascoltare dal suo Without Thinking, e qua la tessitura, l'intreccio sicuramente si fa più vicino al grande con cui concluderemo questa textura di 451 frammenti sonori, che ancora non vi svelo chi è, ma probabilmente tra le corde, di fatto, insomma, usa spesso gli archi e la Guðnadóttir, sentirete, appunto, un suono che sicuramente evocherà il grande maestro di cerimonia minimalista e di buona parte, insomma, delle musiche di flusso, di textura. E sì, il suo Iridescence, appunto, è tratto da questo gioiello, come d'altro d'altronde tutti i dischi, e quando si tratta della Gwanna Dottir si va a trovare poi quella particolarità e quell'incrocio incredibile che prima trovavamo ad esempio in Charlemagne Palestine, per le sue influenze che ha avuto su Pansonico, su Fennez. La Gwanna Dottir ha lavorato con B.J. Nielsen, con la Touch Record, quindi con esperienze tutte legate a quel suono post-industrial, noise, glitch degli anni 90, e che appunto ci portano anche ai nostri giorni, a un suono che si sviluppa insomma in grande ampiezza per quanto riguarda appunto questi intrecci, queste tessiture di grande, grandissimo respiro. Abbiamo ascoltato appunto Hildur Guðnadóttir dal suo Without Sinking disco della Touch del 2009, e che ispirava in certo qual modo insomma la conclusione di 451 frammenti sonori legata appunto alla textura e a quel suono che insomma attraverso l'intreccio, quello che è l'intarsio anche compositivo, l'interso degli elementi anche minimali se vogliamo, e ci porta poi a grandi composizioni anche di grande respiro se vogliamo. Hildur Guðnadóttir riesce a evocare sia il maestro che la Monte Young, così insomma svegliamo insomma chi ha ispirato un po' tutta quanta la faccenda della textura, non soltanto ovviamente di 451 ma in maniera più larga insomma buona parte del minimalismo e della drone music, ma evocava insomma anche quegli spazi sonori, quei momenti insomma anche piuttosto lirici che spesso nelle sue musiche vengono toccati anche in maniera così lieve, però mai distante, insomma forse quale effimero non è toccato, non è voluto, forse c'è quel senso appunto più evocativo dato da questo grande senso lirico che le musiche della Guðnadóttir hanno, mai perdendo di vista poi tutta l'esperienza insomma dell'etichetta, della Touch, per cui collabora, ma anche di Beige Nielsen, con cui insomma spesso ha collaborazioni, che è uno dei personaggi insomma che si muove in quel suono post-ambientale, quella textura forse più vicina a Leyland Kirby e a quella sperimentazione degli anni 90 legato al glitch, o forse anche a quel suono isolazionista e un ambient incattivita dovutamente anche da tempi insomma che insomma portavano verso non paesaggi insomma particolarmente eteri o new age, ma ben altri paesaggi, quelli insomma che preannunciavano gli anni zero, appunto con le Twin Tower, con la crisi insomma economica, quella che ancora insomma non si intravedeva, o che forse insomma stava dentro le corde soltanto di chi appunto riesce a individuare anche le tendenze, non che siano insomma economisti i personaggi che abbiamo messo, è la stessa Guðnadóttir, però di fatto poi riescono, come tante volte l'arte insomma riesce a fare, quella di riuscire a intuire quello che i tempi insomma stanno portando, quelle che sono appunto le tendenze, il divenire, forse in questo senso anche sta questo piano della textura, dell'appunto intrecciare, sapere cogliere anche appunto quelle che possono essere nuove innervature, quasi appunto andando su qualcosa di più concreto, organico, come forse anche, anzi senza il forse, le musiche della Monte Young, che prendiamo da un estratto da un suo lavoro che si pensava assolutamente perso. In realtà poi è una sessione non andata a buon fine. Una delle grandi utopie della Monte era quello di creare la just intonation, la perfetta intonazione, e tutto appunto l'esperimento anche che ha fatto per anni legato a questo, legato all'oceano, portò la CBS anche a spendere tanti dollari costi di registrazione per postati appunto appostati lì nell'oceano, e per riuscire insomma a portare a compimento la just intonation con le onde. Ma la cosa insomma non andò a buon fine, sia per il perfezionismo di Della Monte, che poi non è perfezionismo fine a se stesso, ma è appunto la Just Intonation, una faccenda insomma legata all'intonazione giusta, quella che appunto ha ricercato per anni da Monte Young, e però insomma in maniera quasi miracolosa, come avviene tante volte in questi anni, qualche mese fa è uscito un bootleg con una, appunto, una parte piccolissima di queste registrazioni sul campo, anzi sull'acqua a questo punto bisognerebbe dire, e ce l'andiamo appunto a ascoltare per chiudere questo 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, ma non solo, insomma ho citato insomma personaggi in studio e anche lontani insomma dal bolognese, e concludendo insomma con forse uno dei disegni più utopici, una delle tessure, texture e tessiture più impossibili da compiere, forse in questo senso insomma ci tuffiamo anche definitivamente in questo oceano della Monte Young, che per quanto insomma un po' disgraziato in termini di qualità sonora, però ci fa sicuramente capire e intuire quello che poteva essere uno dei grandi capolavori appunto della minimal music, della textura in generale. Una buonanotte da Max Macchia, fate i bravi se potete, altrimenti insomma fate voi, che forse è il caso. recording now? Okay. So I suppose we sit down here, we just stand here and continue, or on this tape, are you recording, David? We've been using a Sennheiser microphone for Marion's voice, a PML microphone for my voice. Both of those are cardioids. And then we have an extreme cardioid Sennheiser pointed at the ocean, and an omnidirectional Beyer dynamic microphone pointed up in the air, slightly in front of the voices and to the right. And we have, what are you using, David? RE15. RE15 pointed at the ocean. Now, that's being added in now, or has that been in so far? I'm just adding it now. It'll just be added on the remainder of this tape, so. I'm also, for this tape, I'm going to move the, no, I guess I'll leave the omnidirectional where it is. Well, I was thinking it might get more all-around resonances. Pointed straight up in the sky. I could point it